Torniamo a la nostra azione nel guardare la Sacra Famiglia, nel contemplare questa realtà che il Signore ci ha fatto conoscere, come i pastori, no? Che vanno e dicono: andiamo a vedere questa cosa che il Signore ci ha fatto conoscere, no? questo segno. E loro vedono una realtà, perlomeno per quello che dice il Vangelo, normale, un bambino nato e una mamma e un papà. Forse se la nascita virginale del bambino Gesù, come qualcuno pensa, è avvenuto in modo un po' miracoloso, allora forse notano qualcosa di diverso, no? E in ogni caso vedono una situazione di normalità, no? Una famiglia giovane e un bambino appena nato, un bambino che sicuramente, essendo il figlio di Dio, è molto bello, e questa dimensione della, diciamo così, della normalità, e anche noi la possiamo chiamare anche naturalezza, perché poi al di là di questi fatti straordinari degli angeli che portano da loro i pastori o dei magi che hanno visto una stella che poi li guida ad adorare il figlio di Dio, al di là di questi fattori esterni un po' straordinari che fra l'altro fanno stupire proprio anche Maria e Giuseppe. Il Vangelo dice che si stupiscono di tutto quello che dicono le persone che le vanno a trovare, e anche si stupiscono e custodiscono nel cuore, soprattutto la Madonna, si dice della Madonna che custodisce nel cuore quello che vede, quello che sente dire, quello che accade intorno a lei, il che è significativo perché vuol dire che al di là dei fatti che lei narra e che poi San Luca riporta nel suo Vangelo, probabilmente ci possiamo immaginare che altri fatti straordinari non ne siano accaduti, non lo sappiamo, però potrebbe proprio essere così che il Signore custodisce la sua madre attraverso questi episodi singolari, straordinari, però per il resto la lascia nella normalità della vita. Il Vaticano II lo chiama il chiaroscuro della fede, no? Cioè la Madonna che pure deve credere, no? Anche se ha gli elementi per credere, però poi la vita di questo bambino è così normale che deve dire: questo è il figlio di Dio, no? E perché per il resto si sviluppa la sua vita molto normalmente, molto normalmente. E quello che per esempio leggiamo nel Vangelo di San Luca, quando si dice dopo la presentazione al Tempio, l'Evangelista dice: quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Quindi ovviamente si notava la sapienza, la grazia di Dio, però anche la crescita e il fortificarsi, la normale crescita della natura umana. Quindi Gesù come uomo viene educato, impara tantissimo dalla Madonna, da San Giuseppe, quando sviluppa la sua vita pubblica e narra per esempio tante parabole in cui racconta tante cose della vita umana, e lì si può notare quello che lui ha imparato da Giuseppe, da Maria, quello che ha imparato stando con i suoi concittadini a Nazareth, nel suo lavoro, nelle sue amicizie, quello che ha sentito dire, le notizie che ha percepito, no? Quello che... In effetti nelle sue parabole Gesù parla di tantissime realtà della vita umana di allora. E Questo fatto che tu Gesù hai imparato ci aiuta, per esempio, nel nostro cammino di formazione in tutti i suoi ambiti, no? Nella nostra formazione professionale, nel nostro studio e nella nostra formazione umana e in quella anche spirituale. Quindi abbiamo fiducia nella capacità di imparare, nella capacità di crescere con il nostro impegno, con le nostre forze e con la tua grazia, con il tuo aiuto. Quindi contiamo anche sul tempo, come ci incitava a fare il nostro padre, San José Maria diceva, anche pensando alla formazione degli altri, no? Contate sul tempo, no? Perché senz'altro le anime migliorano con il tempo. Come il buon vino, per cui anche per noi questo deve valere. E penso che una parte importante del nostro imitare la Madonna, che conserva nel suo cuore tutte le cose che ha imparato e che ha visto, che sono accadute nella sua vita, anche le cose importanti della sua vocazione e quello che ha sentito dire del bambino Gesù, anche noi custodiamo nel cuore tante cose. E che il Signore ha fatto, e noi ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno, in questo anno, oppure ecco, da quando siamo nati o da quando abbiamo intrapreso la nostra vocazione, custodiamo nel cuore le grazie del Signore e lo ringraziamo, ti ringraziamo, Gesù, dei doni che ci dai, anche dei doni che ci hai dato oggi, delle cose che ci hai regalato. Siamo molto grati delle cose che ci hai regalato oggi. Ecco, Gesù, dicevamo, e contempliamo molto questa normalità, questa naturalezza, perché sappiamo che nel modo di vivere la nostra vocazione cristiana, noi abbiamo nello spirito dell'Opus Dei forte questa sottolineatura della normalità, della naturalezza, che noi notiamo nella vita di Gesù e nella vita di Maria e di Giuseppe, così forte che tanto che i suoi contemporanei si meravigliano che lui a un certo punto faccia quell'intervento nella sinagoga, non è costui il figlio dell'artigiano, di Giuseppe, sua madre non si chiama Maria, conosciamo il nome dei suoi fratelli, dicono loro, no? Che noi consideriamo i suoi parenti. Perché quindi Gesù ha vissuto con loro come un israelita devoto, pio, sicuramente osservante della legge del Signore, come ha saputo coltivare le sue amicizie, ha saputo lavorare bene, quindi era stimato, ma senza svelare la sua natura divina. Quindi come uno tra gli altri, come uno di noi, potremmo dire, no? Allora è proprio questa capacità di vivere con tutti, questa capacità di vivere con normalità la nostra vita, che essendo illuminata dalla fede in Cristo e dall'amore di Lui, può illuminare gli altri proprio a partire dal nostro essere come loro, uguale a loro, e loro, gli altri, i colleghi di lavoro, le persone, i parenti, gli amici e i conoscenti, possono notare la dolcezza dell'amore di Gesù, la dolcezza dell'essere cristiano, la bellezza, l'attrattiva, attraverso il fatto che la nostra vita, così uguale a loro, però la possono notare come illuminata da una luce interiore che ci rende sereni anche nonostante le difficoltà, che ci fa scoprire il senso e diamo un orientamento a tutte le cose della vita, anche quelle più misteriose, perché ci fidiamo di Dio che è nostro Padre, anche quando non riusciamo a capire il perché. di quello che accade. In questo ci guidano anche la Madonna e Giuseppe che vivono questi primi anni che il Vangelo narra nei Vangeli dell'infanzia della vita di Gesù, un po' scombussolati dagli eventi, senza capire esattamente il perché, però fidandosi di Dio e alla fine trovando una strada, mettendoci anche del loro, no? San Giuseppe che va a Nazareth e non a Betlemme perché teme anche il figlio di Erode, no? E guardando, cioè contemplando questa vita di Gesù, i 30 anni della vita nascosta, che peraltro sono anche proprio, sono, secondo nostro padre, anche, lo ha scritto anche negli statuti dell'Opus Dei, no? Sono come il tempo della vita di Gesù che più propriamente noi ci proponiamo di imitare, no? Certo, inoltre c'è anche la vita pubblica che in qualche modo innerva anche adesso che è avvenuta l'opera della redenzione anche la nostra vita normale perché ci porta anche ad essere testimoni anche espliciti, no? Della sua risurrezione, non solo silenziosi come era lui perché non era ancora avvenuto, no? Non è ancora giunta la mia ora, diceva anche la mamma, diceva aspetta, invece. E adesso è avvenuta la redenzione, la risurrezione, quindi noi come i primi siamo testimoni del fatto che Gesù Cristo non solo è venuto al mondo e si è fatto uomo, il figlio di Dio, ma poi è morto ed è risorto e quindi noi abbiamo in lui la vita soprannaturale e il perdono dei peccati. E questi 30 anni di vita nascosta ci aiutano a considerare che tutte le dimensioni della vita umana sono vicine a Dio, sono state vissute da Maria, Giuseppe, Gesù. Pensate appunto alla, non so, potete pensare alla vita intellettuale, no? Al lavorio per la conoscenza delle cose, della verità. L'abbiamo già accennato, nel Vangelo c'è quello squarcio di Gesù che rimane al Tempio e lì, dodicenne, no? Lo trovano Maria e Giuseppe, lo trovarono dopo 3 giorni nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Gesù che interroga, che domanda per sapere, no? Gesù che poi indubbiamente che sa e che quindi anche risponde, no? E pensiamo a tutto il lavoro che ha fatto Gesù il lavoro, possiamo dire così, di studio, il lavoro scolastico, come uomo, no? Che ha imparato ogni cosa. Pensate a come ha imparato il lavoro, il suo apprendistato, tradizionalmente si suol dire nella bottega di Giuseppe, è probabile che sia così, e può essere stato anche in mille altri posti, non è che. Però Gesù impara un lavoro e poi lo realizza bene. Pensate a tutta la dimensione della vita affettiva e Gesù, forse è ancora più facile capirla e vederla quando Gesù è bambino, perché poi come ogni bambino ha bisogno di attenzioni, di cure, di carezze, di abbracci, di nutrimento, di tutto. Di tutto questo, anche quando leggevamo stamattina nel Vangelo della Messa, la presentazione al Tempio, mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, mosso dallo Spirito Simeone, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo, no? Ecco Simeone che lo prende in braccio, che lo abbracciano, tutta questa normalità della vita di un bambino e della vita anche affettiva di un bambino è pienamente di Gesù e quindi è pienamente divina, oltre che essere umana. E così nello sviluppo della sua vita, no? La dimensione dell'amicizia, evidentemente nella dimensione dell'amore umano, Gesù, come sappiamo, ha vissuto il celibato, quindi pare anche che in qualche modo possa essere stato un po' criticato per questo, no? Dice qualche autore, no? E quindi, però indubbiamente ha vissuto il celibato che poi è continuato nella Chiesa come una dimensione di amore non dedicato solo da parte sua ad una donna, ma aperto quindi all'amore di tutti. E questo amore, questa capacità di amare, la notiamo tanto nel Vangelo, no? E probabilmente era anche molto di più di quello che si vede nel Vangelo. Nel Vangelo si notano poche cose, pochi tratti, ma sufficienti. Qualche volta gli evangelisti anche dicono fissato lo amò, per esempio nel caso del giovane ricco, no? Cioè si accorgono che attraverso un suo sguardo si vedeva quanto voleva bene, no? Poi ai suoi discepoli glielo dice esplicitamente, no? Come io vi ho amato, no? Lo mette come esempio, no? Anche voi amatevi come io vi ho amato. E quindi tutta la dimensione della vita affettiva, e pensiamo per esempio nel caso del matrimonio, pur essendo un matrimonio che vivono Giuseppe e Maria custodendo la verginità di Maria, però ovviamente ci immaginiamo che si siano amati tantissimo, non è pensabile un'altra ipotesi, no? Sono... Allora, è come se il Signore ci dicesse in questo modo: guardate che tutte le dimensioni dell'amore umano sono sante, buone, benedette, no? L'ha sempre detto in tutta la scrittura, però lo dice ancora, se, nascendo lui da donna ed essendo un bimbo nato per noi e poi vivendo la sua vita normale tra gli uomini e poi nella sua vita pubblica, la dimensione professionale, la dimensione affettiva, e pensate alla dimensione per esempio a tutta la sua umanità, no? Che può essere indagata anche attraverso i piccoli fatti che il Vangelo narra, eh? Io a qualche persona ho raccontato di un libretto piccolo e molto ben, che mi piace molto, che ha scritto un teologo che ho conosciuto e che si sofferma su, si intitola così, La cucina del risorto, e poi il sottotitolo è Gesù cuoco, e poi, e quindi a partire semplicemente da quel piccolo fatto del Vangelo in cui Gesù cucina, e che alla fine del, cioè, risorto dopo l'ultima pesca miracolosa, però poi lui riflette anche su tante altre cose che Gesù dice e lui nota che Gesù sa cucinare, no? Per esempio, secondo lui, io non sarei stato capace di dirlo perché non sono molto esperto di cucina, e secondo lui, quando parla della donna che mescola il lievito con la farina, dice le misure di farina ma non dice le misure del lievito, che secondo lui un cuoco sempre tiene un po' segreta, no? Quanto lievito mette nella farina e così via, no? Poi a parte che a Gesù piace la buona tavola, no? Infatti dice, è venuto Giovanni che non mangiava e lo criticavano, no? E poi invece a me dicono che sono un mangione, un beone, no? E no, sono mai contenti, no? Sempre hanno possibilità di criticare, però attraverso, e poi attraverso, insomma, gli episodi della sua vita, le cose che racconta, le parabole che dice, lui fa tutto un discorso molto interessante sul valore del cibo per Gesù, che poi è un valore anche, è un valore, insomma, umano, ma anche teologico, insomma, e il senso del nutrire e così via, no? Per cui lui si immagina anche che Gesù ha molto ben presente che non basta solo così cibarsi per sopravvivere, ma si tratta anche di cucinare, che significa trasformare il cibo in modo tale che sia piacevole e quindi anche nutriente, e a seconda anche delle persone. Poi infatti si domanda a un certo punto, una serie di domande su come avrà cucinato quel pesce, insomma, vari modi di cucinarlo, e quel pesce in riva al lago, no? Se con un fuoco particolare che poi gli dà quell'aroma a partire dalla legna, oppure lasciando così l'aroma dell'acqua del lago. E si vede, tra le righe del Vangelo, evidentemente non è che è esplicitato così, però l'interesse e la conoscenza di Gesù per tutte le realtà umane, e anche direi l'amore per tutte le realtà umane, no? Noi in questo, seguendo lo spirito dell'opera di San José Maria, noi sappiamo vedere che veramente non c'è dopo l'incarnazione, a rigore, una sorta di differenza tra ciò che è sacro e ciò che è profano, cioè ciò che può essere in contatto con Dio e ciò che è al di fuori, no? Del tempio, al di fuori. Perché avendo Gesù vissuto sulla nostra terra come uno di noi, sul lago, sui monti, nei campi, no? Nel lavoro, nella famiglia, nelle case. Molto bello scoprire appunto tutte le case che Gesù ha abitato e a contatto con le sofferenze, curando i malati di ogni tipo e parlando ad ogni genere di persone, è come se ci avesse detto Gesù: guardate che tutte queste cose sono cose che non solo che Dio ha creato, ma la vita dell'uomo sulla terra è una vita che io vivo come figlio di Dio e quindi voi potete viverla come figli di Dio. Quindi ogni cosa può avere ha un contatto con Dio, è stata creata da Dio, Dio la può ricevere come offerta e la può utilizzare come strumento per farsi presente, per parlare di sé agli uomini, per salvarci. Ma proprio tutto, tutto, tutto, nulla escluso, nulla escluso. In un certo senso uno potrebbe dire, ma solo il peccato, no? Cioè quello che è un'azione o un detto, un fatto, insomma, che va contro la volontà di Dio. Sì, in un certo senso sì. Anche se poi dopo il Signore anche quello lo sa, cioè è venuto per quello, quindi sono venuto per i peccatori, quindi alla fine noi arriviamo da lui col nostro peccato, no? Come la donna peccatrice che va da lui e lo riempie di baci e d'amore, e lui dice: bene, dai, la tua fede ti ha salvato, non peccare più, e l'adultera, e così anche qualunque altro peccatore. Per cui il figlio del prodigo, che insomma il suo peccato alla fine gli pesa così tanto che lo aiuta a tornare a casa del padre. E quindi evidentemente il peccato non può essere santificato in quanto tale, non può avere la presenza di Dio in quanto tale, perché è proprio una cosa che si oppone a lui, però per quello lui è venuto, ci vuole salvare, insomma, siamo suoi figli, no? I peccatori sì, invece sono per lui, no? Sono venuto per i peccatori, non per i giusti. Per cui da questo punto di vista possiamo dire tutto ci può ricordare il nostro amore che è il Signore, tutto ci può portare da Lui, tutto lo possiamo vivere insieme con Lui. Ogni cosa della nostra esistenza è la lavoro e il riposo, il sonno e la veglia, il gioco e le cose serie, no? Il divertimento e invece, non so, il peso di un lavoro importante, e gli affetti, tutti gli affetti e anche i momenti più difficili anche all'interno degli affetti, per esempio quando anche lì quando vediamo Gesù che rimane a Gerusalemme, questo è un momento un po' difficile nella vita di famiglia, della Sacra Famiglia, perché non era previsto, eh? Non aveva avvertito nessuno, non aveva lasciato detto, no? Non, e quindi loro, e a parte che ci dice anche come probabilmente è un mistero, e quindi può avere tanti significati anche più profondi, però forse da un punto di vista umano educativo, come si fidavano di lui, come lo lasciavano libero, come si fidavano l'uno dell'altra, per cui ecco, andavano gli uomini distinti dalle donne nella carovana, per cui uno ha pensato è con lei, lei ha pensato è con lui, e, oppure sono andati dai parenti, dagli amici. Ci dice anche questo clima, come dire, di fiducia, di libertà nell'educazione di Gesù. Però ci dice un momento difficile, la Madonna e Giuseppe per 3 giorni sono molto preoccupati, sono angosciati, addirittura dice Maria, no? Sono angosciati. Cioè, nella normalità della vita esiste il dolore, esiste l'angoscia, lo troviamo qui, lo troviamo nell'orto degli ulivi, Gesù stesso la prova, quindi esiste la paura, esistono tutti i sentimenti, come dire, faticosi, difficili, non c'è solo le cose belle, la gioia, non è così la vita che prende Gesù, è veramente una vita come la nostra. Quindi anche nella Santa Famiglia, nella Sacra Famiglia, c'è un momento di incomprensione. E quindi tutto questo, no? Cioè non solo le cose belle, non solo la scioltezza delle cose che scorrono bene, ma anche gli ostacoli, anche questo ci porta a Dio, ci aiuta, ci parla di Lui. Possiamo chiedergli aiuto, possiamo offrirlo, possiamo pensare, anche tu hai sofferto una cosa come questa, quindi mi aiuti a viverla. Io posso capirti un po' di più. In un momento di incomprensione posso pensare, anche tu sei in questo episodio delicatamente incompreso, lungo tutta la vita pubblica, profondamente incompreso fino alla croce, fino al processo. E quindi se io mi sento incompreso posso capirti un po' di più. Attraverso le cose che vanno male posso identificarmi un po' di più con te. Quindi veramente tutto può... può diventare oro, no? Mi ricordate che San José Maria prende quel mito del re Mida che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Veramente tutto può diventare oro di preghiera, oro di identificazione con Gesù, oro di santificazione nostra, nel senso di amore di Dio nella nostra vita. A volte non sarà facile trovare questo oro, dobbiamo cercarlo come i cercatori d'oro cercavano le pepite nel letto del fiume, no? E però dobbiamo essere certi che lo possiamo trovare. Ci faremo aiutare, chiederemo un consiglio, chiederemo un aiuto fraterno, perché a volte cercare insieme è più facile, no? Essere in due, in tre, essere uniti nel cercare è più facile che essere da soli, no? Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo, e gli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. E scese dunque con loro, venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Noi possiamo custodire queste cose nel suo cuore, cioè nel nostro cuore, cioè anche la nostra razione, che a volte può essere faticosa, a volte se siamo stanchi, non sappiamo da che parte cominciarla e come portarla avanti, però può essere anche questo, cioè ciò che abbiamo custodito nel cuore, ciò che ci è accaduto, ciò che abbiamo vissuto, lo portiamo davanti a Dio e dico, Signore, dove ti trovo? in questo episodio, in questa vicenda della mia vita? Quale punto del tuo Vangelo o di tutta la Sacra Scrittura mi illumina su questo mistero, della mia esistenza, no? Qual è la spiegazione di questa parabola che tu mi hai insegnato oggi con questo episodio della mia vita? E così magari non abbiamo la risposta prima, ce l'avremo dopo o ce l'avremo anche dopo molto tempo, però potremmo arrivare ad averla e alla Madonna che sapeva fare questo lavoro di custodire nel cuore e di poi di comprenderne il significato, forse anche dialogando con suo figlio Gesù. E le chiediamo di aiutarci.